24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo in diretta su Radio 24, siamo anche in diretta su Facebook 24 mattino, siamo su Twitter @24mattino oppure @AlinoMilan, che sono io. Potete scriverci via SMS al 349-238-6666. Insomma, siamo connessi con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, là al di là del vetro, in diretta fino alle 9. Oggi avremo ospite tra un'ora esatta il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Sarà con noi alle 8:20 e poi parleremo di questa vicenda di Pontremoli, la scuola che ha bocciato 5 bambini in prima elementare, che ha fatto tanto discutere. Ma si può davvero bocciare dei bambini in prima elementare? Sarà tra altri ospiti con noi il sottosegretario Rossi Doria, che è stato anche un insegnante per tanti anni, e il ministero vuole vederci chiaro per capire che cosa sia successo in questa scuola dove 5 bambini all'elementare in prima classe sono stati bocciati. Qualcuno dice che è uno schiaffo dal quale non si riprenderanno più, per altri invece è giusto, la scuola deve formare al merito fin da subito e dunque anche fin dalla prima elementare. Ne parleremo più avanti, ora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. Questo mercoledì 13 giugno, belle aperture, i titoli sono tutti declinati sulla situazione finanziaria europea che davvero lambisce, forse tocca anche l'Italia. I titoli per il Sole 24 Ore: tassi spagnoli record al 6,7%, BTP sotto tiro. Corriere della Sera: l'Italia non avrà bisogno di aiuti, è la frase di Monti. Repubblica: Monti, uniti o si va a fondo. La Stampa: l'Italia non è in pericolo. Il Giornale: l'euro ha 3 mesi di vita, sobrio psicodramma. Il Messaggero: crisi più grave, serve unità, vertice d'emergenza di Monti. L'Unità: paura Italia senza Europa. Avvenire: Italia, la battaglia dell'euro. Vedete che sembrano titoli di una guerra campale, di una situazione davvero rischiosa. Il Fatto Quotidiano, partiremo tra l'altro da qui, c'è una, visto che è rarissima, intervista a Beppe Grillo: cari partiti, calma, crollate troppo in fretta. Libero invece mette i Monti, Giarda e Fornero con il titolo Dilettanti allo sbaraglio in prima pagina, mentre per il Manifesto la vicenda coppia di fatto, ci sono Bersani e Fioroni, la vicenda dell'unione civili, della legge sull'unione civili che sta creando malumori politici all'interno del PD, soprattutto contrasti tra Fioroni e Bersani. Voglio partire appunto dal Fatto Quotidiano perché Marco Travaglio fa un'intervista di 2 pagine, pagina 2, pagina 3, va a trovare a casa di Genova Beppe Grillo, che parla in interviste in maniera molto molto rara. Allora vale la pena leggere cosa dice Beppe Grillo: non ci fregheranno con i Saviano e i Passera, questo è il titolo dell'intervista. Partiti al collasso si illudono di copiarci. Mi sogno il futuro, il prossimo Parlamento, pieno di rappresentanti di tante liste civiche, movimenti di gente per bene, ragazzi, professori, esperti, i nostri 5 Stelle, i NOTAV, quelli dell'acqua pubblica, dei beni comuni, gli altri referendari. Così si immagina il Parlamento prossimo Beppe Grillo, come se lo sogna. E i partiti poveretti si illudono di copiarci, mettiamo un Saviano qui, un Passera lì, un Montezemolo là. Partono dall'alto, non capiscono che noi abbiamo fatto l'esatto contrario, siamo partiti dal basso e da lontano. Io ho cominciato 20 anni fa girando il mondo, visitando laboratori, intervistando ingegneri, economisti, ricercatori, premi Nobel. Ho rubato conoscenza ai grandi, mi sono informato, mi son fatto un culo così, anche se molti mi prendono per un cialtrone improvvisatore. Poi ribadisce: io non mi candido, certo, però dovessi andare al governo andrò a vedere la faccia che fa Napolitano quando gli dirò: presidente, stavolta l'ha sentito il boom. riguardo al programma, ecco, Beppe Grillo dice: fosse dipeso da me ci saremmo fermati ai comuni e alle regioni. Il movimento è nato dimensionato sulle realtà locali, il Parlamento è fatto su misura dei partiti, ma come fai a deludere le aspettative di tanta gente? Ci costringono a presentarci alle politiche. Come sceglieremo i programmi? Abbiamo 8 mesi per decidere. Poi Beppe Grillo, in questa lunghissima intervista, sono 2 pagine intense, pagina 2-3 del Fatto Quotidiano, parla anche di Casaleggio, colui che detiene la Casaleggio Associati, quindi il blog di Beppe Grillo, accusato di essere un guru, una persona che non parla mai. Viene dipinto come una figura luciferina, misteriosa, oscura, dice Beppe Grillo. Sarà, sono anni che lo rivoltano come un calzino e non gli hanno trovato un belino di niente fuori posto. Mai visto una vita più normale, ripetitiva e noiosa della sua. Va in ufficio la mattina, lavora tutto il giorno, la sera torna a casa dalla moglie e dal bambino. Un persuasore talmente occulto che non riesce nemmeno a convincere la moglie a seguirlo nella casa di campagna a Quincinetto, sopra Ivrea. Ecco, la centrale operativa della Spectre è a Quincinetto, dice Beppe Grillo. Poi parla di qualche politico. Di Pietro: una volta entrò in casa mia, gli ho fatto vedere un DVD che avevo solo io di una sua lezione di procedura penale al CEPU. Se l'è messo in tasca e se l'è portato via. Vendola: prima ha detto che io grugnisco, ora che vuole dialogare, in che lingua dialoghiamo? Bersani: dopo aver detto che parlo come i mafiosi e che ho fatto l'accordo col PDL a Parma, dice che vuole dialogare, crede ancora che gli elettori siano proprietà privata dei partiti. Berlusconi: che ti sta studiando, dice Travaglio. Povero nano, risponde Grillo, si sta guardando i miei discorsi. Vi immaginate la scena? Via, basta, tutti fuori, niente più figa, Ghedini, via tutti gli avvocati e le bagasce, voglio vedere solo Grillo. Questa è la risposta di Beppe Grillo. Insomma, una lunghissima intervista, se la volete leggere sul Fatto Quotidiano, parla Beppe Grillo. Cari partiti, calma, crollate troppo in fretta. La seconda segnalazione che vi voglio dare è questa. Concorso ieri, Hotel Ergife di Roma, dove si fanno i concorsi pubblici, si fa anche l'esame di Stato per diventare giornalisti. Ieri c'era l'esame per diventare parte dell'avvocati di Stato, entrare nell'avvocatura di Stato. Credo 3 posti, 1000 candidati. Concorsi, no? Il merito, dove sicuramente si valorizzano i migliori, no? Tutto sospeso per proteste, accuse di brogli, comparse di codici commentati, accuse, contraccuse, urla, spintoni, arrivo dei carabinieri, chi copia e chi canta Mameli, l'esame terribile degli avvocati, pagina 19 di Libero. Ma guardate anche Il Secolo XIX, pagina 10, concorso per avvocati sospeso, è truccato, i candidati notano diverse irregolarità durante la prova, si scatena la rivolta sulle note dell'inno di Mameli. Questa mi ha incuriosito tantissimo. Anche Il Messaggero, prima pagina, poi continua pagina 13 con Claudio Marincola. Irregolarità al concorso avvocati, urla e proteste, prova annullata. Tanto che questo è il buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa, tracce di Stato. Concorso per avvocato dello Stato, la crema dei burocrati d'alto bordo, 3 posti, 1000 candidati, benché il rapporto fra i due numeri susciti sgomento, è la messa cantata della meritocrazia, uno di quei momenti solenni in cui si seleziona la classe dirigente del futuro. Quando ecco insinuarsi in aula i primi mormorii, pare che sui banchi di alcuni candidati, inclusa, sarà una coincidenza, la figlia di un avvocato di Stato, siano spuntati dei codici civili commentati, vietatissimi dai regolamenti, e perciò penetrati serenamente fin lì. Incomincia a girar voce che abbiano addirittura il timbro della commissione d'esame. In passato i non raccomandati avrebbero portato ugualmente a termine la prova con la rassegnazione di chi sa che in Italia i concorsi sono gare col trucco in cui chiunque partecipa alla corporazione in esame si ingegna a tirar dentro parenti, amici, sotto l'occhio distratto dei commissari. I più svelti si sarebbero accordati direttamente coi raccomandati, facendosi comprare il proprio silenzio con un aiutino, Ma stavolta i giovani tagliati fuori dai giochi non si inchinano, non si accordano, strepitano e la voce della commissione viene sepolta dalle tante che urlano e intonano l'inno di Mameli. Qualcuno si è alzato, pare che abbia intonato l'inno di Mameli, no? Nel pieno delle proteste. Arrivano poliziotti, carabinieri, la prova viene sospesa, l'avvocato generale dal nome spagnoleggiante Ignazio Francesco Caramazza parla di minoranze e pretestuose lamentele. Non ha capito, scrive Gramellini, che l'aria sta cambiando. Se i privilegi non mutano registro, presto si tramuterà in tempesta contro ogni casta consolidata, finendo per travolgere anche il buono che resta. Questo è Tracce di Stato, il buongiorno di Massimo Gramellini oggi sulla Stampa. Davvero è finito, beh, certo in vergogna, oltre che ora che succede? Esame sospeso, andrà rifatto. Erano in 975 per tre posti da procuratore, i contestatari che intonano l'inno di Mameli nel pieno della bagarre, tutto sospeso, concorso in Italia. 5 minuti. 24 mattino. Siamo qui alle 7:36 minuti, allora concentriamoci su quella che è la situazione europea, finanziaria e italiana, perché ieri si era sparsa questa notizia, soprattutto complice una dichiarazione del ministro austriaco Maria Fechter, ministro dell'economia, che ha detto in pratica anche l'Italia potrebbe chiedere aiuto all'eurozona tra poco, come la Spagna. Apriti cielo, una giornata di tensione, ovviamente con tanto il piccato Mario Monti, il premier, che ha risposto dicendo non commento le dichiarazioni di questo ministro, siccome considero del tutto inappropriato che un ministro delle finanze di uno Stato membro commenti in questo modo la situazione di un altro Stato membro, mi astengo dal commentare a mia volta le dichiarazioni di questo ministro. Certo, è chiaro che dichiarazioni del genere poi portano a far volare i gufi su un paese, a far aumentare le voci sulla presunta speculazione, eccetera. Si rischia di innestare quel processo vizioso per cui poi uno Stato si ritrova, in men che non si dica, nel mirino appunto degli speculatori. Per cui subito si è cercato di arginare questa dichiarazione del ministro Fechter, ministro austriaco, che peraltro poco dopo ha smentito se stessa dicendo no, nessun segnale indica che l'Italia possa chiedere un salvataggio, io non ne vedo. Quindi insomma anche questo stesso ministro austriaco ha fatto retromarcia, non si sa. Sta di fatto che ieri è stata una giornata molto molto intensa. A leggere retroscena dei giornali, Monti ha ribadito in maniera ufficiale l'Italia non ha bisogno di aiuti, leggete la cronaca di Dino Pezzole a pagina 5 del Sole 24 Ore. Poi in serata che cosa ha fatto? È ritornato a convocare il vertice ABC, Alfano, Bersani e Casini. Ma come, avevano detto che quei vertici erano morti, sepolti? Alfano aveva detto mai sta, ma non è mai esistito il vertice Alfano, Bersani e Casini in realtà. E invece ieri questa maggioranza anomala che sostiene in Parlamento il premier Monti è stata convocata perché la situazione è effettivamente una situazione difficile. E infatti del retroscena ne segnalo due. Francesco Verderami del Corriere della Sera, pagina 8 e 9, in taglio basso, lo trovate, cioè al basso della pagina, per non usare un gergo giornalistico. L'articolo è: il professore disse ai tre leader ho bisogno di aiuto anche in Europa. È un Francesco Verderami che racconta di un professore parso angosciato ai suoi ospiti quando ha detto che i rischi per l'Italia di essere contagiata sono assai elevati, perciò ha chiesto di serrare le fila, esortandoli ad aiutarlo con un'opera di moral suasion presso le rispettive famiglie europee, in modo da collaborare alla riuscita del vertice di Bruxelles di fine mese. E quindi PDL, UDC e PD dovranno agire sui rispettivi colleghi della CDU, della SPD tedesca, così da aprire un varco su Berlino. Una situazione definita da Verderami schizofrenica, perché se il premier può vantare sul fronte internazionale ottimi rapporti con le cancellerie occidentali e sta facendo quanto nelle sue possibilità grazie anche al ministro Moavero, sul fronte interno sta invece scontando pressioni istituzionali e politiche. la pluralità di input, come li definisce un suo autorevole collaboratore, che su certi dossier lo hanno esposto fino a trasformarlo in una sorta di parafulmine, per esempio i vertici Rai, il braccio di ferro sulla giustizia. Insomma, comunque un Monti che ha chiesto ai partiti di aiutarlo, di stare uniti, tanto che il titolo di prima pagina della Stampa è proprio questo: uniti ora, altrimenti c'è il rischio, di crollo. Sulla Stampa, pagina 5, se continuate così rischiamo di essere il prossimo bersaglio. Ma è sul retroscena di Repubblica, firmato Francesco Bei e Alberto D'Argenio, che c'è un dettaglio in più. Lo trovate in prima pagina e poi a pagina 3. L'ultimo appello alla maggioranza: subito le riforme o il paese affonda. E il dettaglio in più, non irrilevante, è che, rivela Repubblica, Mario Monti, alla fine della giornata più drammatica, cioè lunedì, a sera ha telefonato ad Angela Merkel, al cancelliere tedesco. E cosa ha detto la cancelliera? Intanto il retroscena parla di un Monti che riferisce al vertice ABC che la prossima preda della speculazione potremmo davvero essere noi. E poi, appunto, racconta Repubblica che Monti ha capito che la situazione è critica proprio quando ha alzato la cornetta del telefono e ha parlato con Angela Merkel. Ha toccato così con mano la pericolosità della situazione. In serata, infatti, ha chiamato lunedì, dopo il bagno di sangue sui mercati, e dall'altro capo del telefono arrivano solo no. E di fronte alla durezza della Merkel, Monti comprende il senso di una frase che la stessa cancelliera qualche giorno fa aveva pronunciato in risposta a un altro leader e che ha fatto il giro delle cancellerie. Udite bene cosa avrebbe detto Angela Merkel, secondo Repubblica, a un altro leader europeo. Questo: dici che salta tutto? Beh, un po' di purificazione farà bene all'Europa. Questa avrebbe detto Angela Merkel a un leader europeo un paio di giorni fa. Una frase che, scrive Repubblica, ha fatto già il giro delle cancellerie degli stati europei. Roba da gelare il sangue. Aggiungo io, per carità, non c'entra niente, tempi diversi, ere diverse, personaggi diversi. Ma sentir dire a un leader tedesco parlare di purificazione di Europa, a me ha fatto anche gelare il sangue e venire i brividi, perché ho fatto un altro tipo di associazione. Ma per carità, è il termine proprio. Dici che salta tutto? Un po' di purificazione farà bene all'Europa. Questa sarebbe la visione di Angela Merkel, che infatti tiene duro. Ieri ha fatto scalpore, ha suscitato molto scalpore il titolo di apertura del Sole 24 Ore con questo invito: Schnell Frau Merkel, cioè faccia presto, cancelliere signora Merkel. E l'invito, insomma, a agire. Cosa fa Angela Merkel? Tipo tosto, per carità. Per ora non cede su nessun fronte. Bisogna cedere sovranità, così ha detto, nonostante la presidente del Fondo Monetario Internazionale Lagarde alla CNN ha detto: guardate che ci sono tre mesi per salvare l'euro, finiti questi tre mesi l'euro rischia di crollare. E Merkel tiene duro. Anche il Sole 24 Ore a pagina 4 dice: bisogna cedere sovranità, certo, su uno dei punti. La vigilanza bancaria europea, si è ceduto qualcosa, ma nessun accenno invece al secondo punto del dibattito, cioè la garanzia dei depositi bancari in chiave europea, e poi l'unificazione dei debiti pubblici europei. Certo, bisogna cedere un po' di sovranità in nome dell'Europa unita. La Merkel però di fatto ha preso ancora tempo. E poi questa frase, chissà se l'ha detta veramente: crolla tutto, beh, un po' di purificazione andrebbe bene. Sta di fatto che vi segnalo che la Stampa ha intervistato, e intervista oggi a pagina 2-3, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che dice: l'Italia non rischia. Non credo affatto, se l'Italia continuerà sulla strada imboccata con Monti, non ci saranno pericoli. Quindi getta un po' di acqua sul fuoco, ci tranquillizza. La Spagna è sulla strada, anche la Spagna è sulla strada giusta, non ha bisogno di un programma d'aiuti, ha un problema specifico con parte del settore bancario, sono sicuro che lo risolverà. Questo è l'inizio dell'intervista di Alessandro Alviani, che trovate sulla Stampa, pagina 2 e 3. In Germania non abbiamo fatto buone esperienze col fatto che si possa recuperare credibilità e fiducia sui mercati iniziando a cambiare le regole. Così si può dare l'impressione che non si vogliono affrontare nel merito i problemi. Non consiglierei di risolvere i problemi attraverso delle variazioni statistiche. È già andata decisamente storta al momento dell'ingresso di alcuni paesi nell'Unione Monetaria. Ora non ripetiamo l'errore. Sta di fatto che un Schäuble che dice... ho fiducia nell'Italia, ho fiducia in Monti, confido nella forza di persuasione di Monti anche sulla Francia, faremo il nostro meglio per collaborare col presidente Hollande, dice il ministro delle finanze tedesco. Sta di fatto che la situazione è di difficoltà, per usare un eufemismo, per quel che riguarda la finanza europea. Venendo all'Italia, c'è le polemiche sugli esodati, c'è la politica. Tutto questo dopo il traffico. Allora, come si può dire, esodati puntata 2, cioè c'è in atto un impazzimento di dichiarazioni. Ora il ministro Elsa Fornero vuole licenziare di fatto i vertici dell'INPS, questo ha detto, cioè se fossimo nel privato i vertici sarebbero da licenziare o comunque il rapporto da rivedere. Per le vicende degli esodati, quanti sono questi esodati? Un documento di due giorni fa dell'INPS che diceva sono 390.000. Il ministro Fornero prima ha convocato i vertici dell'INPS, poi ha detto i dati sono sbagliati, sono inesatti, non è che io non voglia dare i dati, ma bisogna dare dei dati corretti. Insomma, una polemica che non finisce più, con ora controaccuse. Il Corriere della Sera fa un'intera pagina, pagina 11, dal ragionieri al direttore generale, ecco i protagonisti di un disastro. Il dato di fatto è che ci sono centinaia di migliaia di famiglie italiane, il numero per carità non lo dico io visto che non sanno neanche quanto sono, in ansia per il loro futuro. E come scrive il Corriere della Sera con questo articolo che vi invito a leggere, a pagina 11 di Enrico Marro, una catena di errori dall'inizio. Un tormentone degli esodati cominciato a dicembre e non sappiamo come e quando finirà, scrive Marro. La frittata è stata fatta anche perché il governo non ha seguito una linea di trasparenza. Si sapeva fin dall'inizio che i tecnici avevano dato l'allarme, ma i documenti, le stime messe nero su bianco sono state tenute segrete. Prima si è detto che erano 350.000, l'esecutivo poi ha smentito, poi che erano 65.000 e basta, infine che erano sì 65.000 ma per i primi due anni, per gli altri che verranno dopo si vedrà. Una linea ondeggiante fin dal primo momento. Enrico Marro cerca di ricostruire anche con i protagonisti, i nomi, e ci sono le foto per esempio del presidente dell'INPS Mastrapasqua, del direttore Mauro Nori, del ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, dell'ex sottosegretario Gianni Letta, tutti coloro che hanno composto e compongono questa vicenda davvero intricata a dir poco e di cui non si vede ancora la luce. La politica, voglio segnalarvi due cose. Ci si interroga sul tema, l'arresto di Lusi. È arrivata la richiesta da parte della, attenzione, la giunta del Senato delle autorizzazioni, ha detto a maggioranza sì, si procede all'arresto. Ora dovrà votare il Senato, quindi l'Aula. Non sempre vengono rispecchiati i pareri della giunta. L'ultimo caso è quello De Gregorio. De Gregorio, la giunta aveva detto si proceda con l'arresto, poi nel segreto dell'aula maggioranze trasversali hanno salvato De Gregorio. Succederà così anche per Lusi? Chi lo sa? Intanto l'ex tesoriere della Margherita, che non rilascia interviste ma appare sempre in intervista sui giornali, uno dei misteri italiani, anche oggi su Repubblica fa qualche risposta. Annalisa Cuzzocrea scrive: lo chiamiamo in studio, dice non rilascio interviste ma poi risponde alle domande. Bah, vai a capirlo, poi smentirà di aver fatto un'intervista. Uno quando parla con un giornalista, che il giornalista è chiaro che se ne fa, la racconta sua nonna le cose, no, le scrive sul giornale. E infatti col voto segreto avrò una maggioranza trasversale, eccolo qui Lusi che lo dice. Dicono che non chiederanno il voto segreto, io farò il mio intervento in aula, ma se c'è un voto segreto per avere la maggioranza deve essere per forza trasversale. Se mi chiede chi sento più vicino in questo momento, entrerei in un discorso troppo lungo che non è il caso di fare. E alla domanda: senta, sua moglie ha gli arresti domiciliari dal 5 maggio, lei è libero, non crede che questo renda plastica la differenza di trattamento tra un senatore e un comune mortale? Come dovrei rispondere? Dice Lusi. Beh, come la fa sentire, per esempio? Sono incazzato nero. Non c'è uno straccio di motivo per tenere mia moglie ai domiciliari. L'unica ragione identificata dall'esame è il pericolo di fuga. Vabbè, insomma, un Lusi che dice spero nel voto segreto e trasversale. C'è anche un dibattito serio sulle unioni civili tra omosessuali che sta dividendo il PD dopo un'intervista ad Avvenire al leader PD Fioroni, che ha detto: mi candido alle primarie anch'io se Bersani la butta sulla linea sia le unioni tra omosessuali. Fioroni ieri era uno dei più twittati dal popolo di Twitter. PD e gay, fuoco amico contro chi dissente, pagina 8 di Avvenire, torna su questo tema Avvenire, come questo tema sta dividendo il Partito Democratico in vista delle primarie. Certo, tema affine, ma dobbiamo commentare quello che ha detto Cassano? La cassanata, no, mi viene da ridere perché adesso ci sono dibattiti sui giornali. Allora, Cassano, commentando ciò che Cecchi Paone alla Zanzara qui a Radio 24 aveva detto, dicendo ci sono anche degli omosessuali in nazionale, ha detto col suo linguaggio da Cassano: soffroci, peggio per loro, problemi loro, no? Poi in serata la FIGC, la Federazione Calcio, ha detto: ma no, ha messo in bocca a Cassano queste parole, non volevo offendere nessuno, non voglio mettere in discussione la libertà sessuale delle persone, che si capisce subito che gli ha scritto qualcun altro, perché Cassano non è in grado di esprimersi in questo italiano. Ho solo detto che è un problema che non mi riguarda, non mi permetto di esprimere giudizi sulle scelte di altri. Sta di fatto che la frittata è fatta, l'uso di questo termine, froci. Aldo Grasso scrive in prima pagina del Corriere: ma è possibile che ci si esprima come Cetto alla qualunque in nazionale? Certo, un giocatore della nazionale non è deputato a parlare un corretto italiano, però l'uso dei termini, siamo anche un simbolo all'estero. Carolina, la moglie di Cassano, ha scritto un tweet: chi è intelligente capisce che quella di Antonio è una cosa ironica e non offensiva. Poi, se tu sei scemo, problemi tuoi, bello. Ecco, questo è il tweet della moglie di Cassano a difesa di Antonio Cassano. Direi che con questo tweet possiamo chiudere degnamente la rassegna stampa e diamo la linea al giornale radio. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:20 in punto in questo istante e io voglio parlare di attualità politica. Per questo saluto il governatore della Sicilia, il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a voi. Senta presidente, ieri abbiamo letto sul Corriere della Sera questo, con un po' di inquietudine devo dire, questo articolo di Gian Antonio Stella secondo il quale, votando in anticipo la Regione Sicilia come si prevede, salterebbe la riforma che taglia i parlamentari siciliani da 90 a 70, dovrebbero scendere la prossima legislatura. È così? Cioè c'è questo, salterebbe questa riforma? Può saltare come può non saltare, voglio dirle, la notizia che in un lungo articolo con una paginata intera di Corriere della Sera da Gian Antonio Stella è fondata su un falso presupposto, perché Gian Antonio Stella la attribuisce intanto a me, che proprio non c'entro nulla ovviamente come capita spesso, ma poi l'attribuisce eventualmente all'Assemblea regionale siciliana. Ripeto, niente di più falso, dovuto non so a che cosa, se a ignoranza o a malizia, e le spiego subito perché. L'Assemblea regionale siciliana nel dicembre scorso vota perché vengano ridotti i parlamentari di cui è composta da 90 a 70. Trattandosi di una modifica dello statuto che ha il rango di costituzione per accordi che sono stati fatti tra la regione e lo Stato, da 90 a 70, questa riduzione è competenza del Parlamento nazionale. Sì. Il Parlamento nazionale cosa dovrebbe fare, come per le altre modifiche della costituzione, in questo caso dello statuto? In doppia lettura riformare lo statuto, e cioè votare la Camera come oggi e dopo 3 mesi tornare a votare, votare il Senato come domani, mettiamo, e dopo 3 mesi tornare a votare. Il Parlamento nazionale, cioè la Camera e il Senato, dal dicembre scorso, dopo l'input dell'Assemblea, avrebbe potuto, anzi dovuto, come da richiesta dei parlamentari regionali, ridurre i parlamentari. Quindi è colpa del Senato e della... Non l'ha fatto il Senato aprile, l'ha fatto non il l'ha Senato. Fatto la Camera. Le faccio un esempio. Se il 20 gennaio la Camera dei Deputati o il Senato avessero votato per la riduzione, avrebbero dovuto poi tornare a votare, mettiamo il 20 gennaio, febbraio, marzo, aprile, il 20 aprile. Diamogli un altro mese, il 20 di maggio. Se dopo che la Camera avesse votato il 20 gennaio, il 25, il 28, il primo febbraio, avesse votato anche il Senato dopo 3 mesi avrebbe dovuto tornare a votare. Diciamo che lo ha fatto soltanto il Senato, non lo ha fatto la Camera. E sapete perché non lo ha fatto? Perché? Perché, tra l'altro, sarebbe stato singolare, non lo ha fatto per questo, per non farsi richiamare forse alla sua responsabilità, che riducesse i deputati della Sicilia, cosa che comunque poteva fare e che i siciliani all'Assemblea avevano chiesto. E però io... ha ridotto di un solo parlamentare una Camera di 600 deputati e un questo Senato di 300. Però io, Presidente, non ho capito, cioè nella prossima legislatura che ci troveremo della Sicilia? Lei dice può succedere o può non succedere, e guardi, che succederà? Subito. Faccia una sua previsione. Oggi ne abbiamo. Cos'è oggi? Oggi il 12 giugno. 13 giugno. Se oggi o domani la Camera dei Deputati votasse, e cioè se il 14 giugno la Camera dei Deputati votasse la riduzione, intanto il Senato ha votato ad aprile, maggio, giugno, luglio, potrebbe benissimo votare a luglio e avrebbe già fatto la sua parte, le due votazioni in 3 mesi. Se la Camera votasse domani, e cioè il 14 di giugno, e poi dopo 3 mesi, cioè il 14 settembre, tornasse a votare, se si vota in Sicilia come si vota in Sicilia il 28 e il 29 di ottobre, e cioè se questa modifica anche la Camera la facesse entro il 15 settembre, diventano 70. 15 giorni prima che si presentano le liste, perché le liste si presentano un mese prima delle elezioni, si voterebbe con 70 deputati. Quindi è tutto fattibile, diciamo, dipende dai tempi della Camera. Non è che è tutto fattibile, è fattibile. È tutto di competenza della, della Camera e del Senato. Ed che è fattibile. La attribuisca, come dire, al governo regionale, a me, che chiaramente mi guadagno una bella fotografia, e all'Assemblea regionale siciliana o ai siciliani, è, come dire, non le piace. Ma non è che non mi piace, è una falsità. È una falsità che viene propinata a 1 milione di italiani circa. Faccia pressione sui deputati, ce ne sono tanti siciliani alla Camera italiana, che facciano questa cosa. La pressione che ha fatto autorevolmente la Sicilia l'ha fatta con il voto praticamente unanime dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ha chiesto, non è che ha subito, ha chiesto la riduzione dei parlamentari. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, si modifica uno statuto che ne prevedeva 90, se ne era proposto che se ne facessero 70. Presidente, un'altra notizia che ha colto molto di sorpresa nei giorni scorsi è la scelta del bando della Regione Sicilia di nominare, di chiedere dei camminatori, che sarebbero quelli... È un'altra grande menzogna. Che noi giornalisti... È uno dei tanti bandi o tanti interpelli che si rivolgono all'interno dei dipendenti regionali. Che facciamo? Raccontiamo solo menzogne noi giornalisti? Che facciamo? Non è che raccontate menzogne, vi chiedo di informarvi per benino. Questi cosiddetti camminatori, che poi non è che sono proprio camminatori, sono anche addetti, come dire, a traslochi o roba del genere, perché se ne fanno sono interni all'organico regionale. Vuoi fare un mestiere diverso? Può darsi che questo mestiere gli comporterà ovviamente un incremento di stipendio di 100 euro o di 50 euro. Se ci sono, è doveroso. Non sono dipendenti in più, sono riqualificati. Diciamo. Anche se qua si parla delle decine di migliaia di dipendenti, e questo è vero, lei la prego di prendere atto, lo dico attraverso la radio, che noi, il primo governo della regione da 60 anni a questa parte, che ha fatto una legge, ma prima vigeva un mio atto deliberativo, la legge l'abbiamo fatta a fine 2008, cioè lo stesso anno dell'insediamento, ci siamo insediati ad aprile-maggio del 2008, di blocco delle assunzioni, non soltanto nella regione, cioè nell'organico regionale, ma anche in tutte le aziende, le partecipate, controllate, finanziate dalla regione, quindi nuove assunzioni non se ne sono potute fare. E che sono? E quindi riqualificazioni delle persone già dipendenti della regione? Oppure individuazione di profili professionali che magari ieri non servivano e oggi servono. Ma servono davvero nell'era della tecnologia quelli che vengono definiti camminatori? Sì, se si intende per camminatori colui il quale si muove fisicamente per andare a depositare una lettera, perché internet si usa anche dalle nostre parti, chiaramente sbaglieremmo. Si tratta di soggetti che devono fisicamente muoversi, perché devono spostare oggetti che non possono camminare via internet o altrimenti. Ah, perfetto. Senta, Presidente, lei ha già detto che non si ricandida, è vero? Conferma? È vero che lascia la politica addirittura totalmente? Confermo che non mi candido. Se per politica si intende ovviamente l'interesse che ogni cittadino deve avere nei confronti della cosa pubblica, credo che questa, come dire, sia fisicamente e praticamente impossibile. Ma che io abbia espresso la volontà ferma di non continuare ad occuparmi di politica è fuori discussione. Questo non vuol dire che io non darò una mano con tutto il cuore e con tutte le mie risorse mentali e non alla causa politica nella quale credo. Questo beh, questo sì, però diciamo non avrà ruoli, cioè non si candida neanche al Parlamento nazionale. Non mi candido a nulla. A nulla. Peraltro l'ho già fatto tante volte e credo che questo sia più che giusto, più del giusto, molto più del giusto. E che farà? E che farà? Ma guardi, farò altre cose. Ho una laurea in medicina, forse è tardi, compio 62 anni proprio a fine ottobre, e quindi riprendere un mestiere che poi in fondo ho iniziato soltanto qualche volta, perché la politica ha occupato gran parte della mia vita, è un po' complicato. Beh, io sono appassionato di agricoltura, ho un agrumeto, oggi è complicato governarlo e cercare di pareggiare i conti entro fine dell'anno. Mi inventerò un lavoro, un mestiere, dal momento che sono ancora capace di intendere e di volere. Tra gli agrumi, no, ci credo poco. Il presidente è una cosa stupenda e bellissima. No, ma voglio che sì, questo lo voglio credere. Una delle questo cose sì. Più belle che si possono fare nella vita. Senta, però, presidente, dovrà anche avere a che fare con questa che lei ha definito un'iniziativa che la magistratura mette in discussione la sua onorabilità, cioè questa imputazione coatta per concorso esterno alla mafia. Lei non ha paura di finire come Cuffaro? Può fare gli scongiuri, ovviamente. Beh, sì. Faccio nessuno scongiuro, ci mancherebbe altro. Se sarò ritenuto responsabile, mi affido, come tutti i cittadini devono fare, alla magistratura, nei confronti della quale possiamo ritenerci penalizzati, ingiustamente perseguiti, eccetera, ma questo è il nostro diritto, ma dobbiamo affidarci alla magistratura e crederci, perché uno dei presupposti su cui si fonda la nostra democrazia e la nostra libertà. Se sarò ritenuto responsabile dovrò pagare, guai se non fosse così, come gli altri. Per quanto mi riguarda, tengo soltanto a precisare che io ho avuto richieste di archiviazione non da parte dei miei difensori, ovviamente, ma bensì da parte della pubblica accusa sotto tre capi diversi. Però il GIP l'ha vista in modo diverso. Ha operato questa imputazione coatta e una... Lei come la definisce? Come definisce questo gesto del GIP dal suo punto di vista? Definisco ovviamente un gesto, una sentenza, un'ordinanza che non commento. Ci mancherebbe altro, ne prendo atto, se vuole posso dirle che la subisco, rispetto alla quale quindi io ho il diritto e il dovere, come gli altri cittadini, di difendermi. Sono non consapevole, ma d'altronde anche questo è il mio diritto, molto più che consapevole della mia assoluta estraneità a questa storia, dopodiché lo dimostrerò non attraverso, mi dispiace, la radio o i giornali, ma nelle aule di giustizia, tribunale, che ora frequento, perché credo che il migliore difensore di se stesso sia l'imputato. Ecco perché, peraltro, questo l'ho sempre dichiarato da quando è arrivata il 29 marzo questa benedetta notizia, mi sarei dimesso comunque prima, non di una sentenza di rinvio a giudizio, di un'ordinanza, ma un minuto prima, perché il rinvio a giudizio o, se farò il rito abbreviato, l'eventuale condanna, mi auguro che ci sia l'archiviazione, ovvero che ci sia l'assoluzione, non dovrà toccare il Presidente della Regione, ma bensì il cittadino semplice. Certo. Comunque non ha paura di finire come Cuffaro, è un destino. Guardi, se uno deve pagare il fio delle sue colpe, lo paga. E poi, per carità, quello che conta è che riusciamo a riscattare comunque la nostra credibilità e onorabilità. Io sono fermamente convinto che ci riuscirò. Un'ultima cosa, Presidente, visto che lei lascia la politica almeno attiva come ruoli, il nuovo che avanza invece è Beppe Grillo. Mi dia un suo giudizio lapidario su Beppe Grillo. Guardi, giudizio lapidario su Beppe Grillo e sull'antipolitica. Non ci sarebbe, a prescindere dai meriti o dai demeriti della politica, della cosiddetta casta, eccetera, se non ci fosse la crisi e la recessione. Se non si risolve quella, può darsi che Grillo magari si parlamentarizzi e ne verrà un altro. C'è un disagio sociale, un rifiuto per la politica che è stata incapace di risolvere i problemi economici, del lavoro, finanziari, eccetera, per cui chiaramente la gente, anche se non ci fosse nessuno, rinunzierebbe a votare e a partecipare. Oggi vota Grillo perché comunque disapprova profondamente un sistema che sta determinando in noi, nonostante i sacrifici, le IMU e le cose varie, un dramma e una condizione di povertà e di disperazione che è sotto gli occhi di tutti. Da questo punto di vista voglio dirle che o si risolve drasticamente la crisi, mi spiace, io con Berlusconi da qualche tempo a questa parte non vado d'accordo, non ha avuto il coraggio di sviluppare fino in fondo questa sorta di boutade che ha lanciato l'altro giorno così mediaticamente, quella cioè di cominciare a battere moneta, di investire, di uscire dalle logiche del debito che va crescendo comunque. Oggi io leggo da qualche parte 40.000 euro di crescita del debito pubblico ogni minuto, per cui cosa facciamo? Facciamo una manovra, risparmiamo qualche lira, perché in fondo 30-20 miliardi di euro sono niente, ma dopo sei mesi troviamo che il debito pubblico è cresciuto ancora di più. E siccome non si esce da questa spirale, e siccome la Grecia disperata fa registrare ogni giorno miliardi di euro di guadagni per i grandi speculatori della finanza, o si taglia la testa a questo serpente o non abbiamo nessuna speranza. Lei lo farebbe, non è una buttata. Intanto la ringrazio, buona giornata Raffaele Lombardo, presidente e governatore della regione Sicilia. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi andremo a capire, cambiamo tema, cosa è successo in questa scuola elementare di Pontremoli. 5 bambini in prima elementare bocciati, ma è possibile in prima elementare? Tra poco. 24 mattina. Allora, si può bocciare in prima elementare? La domanda è, certo, la risposta è sì, si può bocciare in prima elementare, ma è davvero possibile bocciare un bambino in prima elementare? È una cosa che è successa a 5 bambini dell'istituto comprensivo Giulio Tifoni di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, e che ha fatto suscitare un dibattito anche tra editorialisti ieri sui giornali, a dire: ma come bocciare un bambino in prima elementare? È come dargli uno schiaffo nel momento in cui entra nel mondo degli adulti, nel mondo della scuola ufficiale, un qualcosa che lo segnerà a vita, per esempio, ha scritto Giordano Bruno Guerri. Per molti invece, per altri, la scuola, se vuole premiare il merito, se vuole premiare i migliori, se vuole avere il coraggio di dire a quelli magari un po' più indietro, fin da subito, dovete rifare l'anno, deve farlo, perché altrimenti se no si omologa tutto in nome di un finto buonismo. È successo a Pontremoli, ne discutiamo con il sottosegretario all'istruzione, che ringrazio, è tornato con noi Marco Rossidoria. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, Rossidoria. Buongiorno. Mi faccia salutare Arianna Toma. Buongiorno signora Toma, eccoci. Buongiorno. Qua lei è presidente del comitato genitori dell'istituto comprensivo Giulio Tifoni, cioè dove è avvenuta questa vicenda. Non entriamo nel merito, insomma, la sta ascoltando il sottosegretario all'istruzione, ci sarà un'ispezione credo del ministero, però innanzitutto ci spieghi com'è possibile che 5 bambini siano stati bocciati. Dunque, allora, noi come comitato non entriamo nel merito dell'operato degli insegnanti, che per noi è stato assolutamente eccellente, quindi non vediamo il problema nell'insegnamento. Quindi intanto già questo, si sono comportati in maniera corretta con queste bocciature secondo voi? Ecco, eccellente. Il problema secondo noi è andare a monte, la bocciatura è un sintomo, andare alla causa di questo sintomo. Com'è possibile che 5 bambini vengano bocciati in prima elementare? Beh, per noi è semplice, perché sono classi sovraffollate, hanno un numero talmente alto di bambini che anche il migliore insegnante trova delle enormi difficoltà nel gestire la classe. C'è da dire che uno di questi bambini, però me lo confermi lei, ha problemi, leggevo, di disabilità, è seguito da un insegnante di sostegno, 3 sono stranieri, è corretto così? Esatto. In 2 classi diverse, 1 italiano invece, cioè il quinto diciamo non è né con problemi di disabilità ed è italiano? Esatto, esattamente. Quindi, il disabile tra l'altro ha avuto le ore di sostegno, però ahimè secondo gli ultimi tagli sono 12 ore alla settimana su un tempo pieno, quindi sono molto poche. Senta, ma com'è possibile? Cioè lei dal punto di vista pedagogico avrà una sua idea, sì. Vedere 5 bambini che l'anno prossimo vedranno i loro compagni a 6 anni, ricordiamo, o a 7 anni, andare avanti di un anno e loro già si devono fermare, non è secondo lei un'umiliazione, uno schiaffo, oppure è il giusto provvedimento che verrà recepito, capito da questi bambini, metabolizzato e poi andranno avanti? Beh, allora, questo io, per me è molto difficile entrare nel merito di questo perché non ho competenza in materia. Sicuramente è un approccio molto difficile perché il bambino entra in una classe come entrare in una famiglia, quindi cambiare classe vuol dire un po' anche cambiare figure di riferimento. Sicuramente non sarà una cosa semplice per il bambino. Però, ripeto, purtroppo secondo me più che meravigliarsi del fatto che 5 bambini vengono bocciati, bisogna meravigliarsi del perché vengono bocciati, perché ci sono 2 classi in prima elementare, una con 30 bambini e una con 29. Allora, lei insiste su questa cosa del sovraffollamento. Allora, sottosegretario Rossidoria, vediamo di mettere alcuni punti. Intanto, se vuole partire da che cosa? Dal tema del sovraffollamento, che secondo Arianna Toma è la causa di tutto questo, giudizio eccellente da lei agli insegnanti, oppure ci dica anche il Ministero come si comporta, so che è partita un'ispezione. Ma parliamo dal Ministero, noi siamo un sistema fatto così, le scuole sono autonome, quindi libere e responsabili, lo prevede la norma, lo prevede la Costituzione e quindi hanno la libertà educativa e pedagogica tale da prendere delle scelte secondo l'organizzazione e la norma. Quando avvengono delle cose di questo tipo, che sono, come ha detto il ministro Profumo, un po' strane, ecco, io mi atterrei a questa dicitura, perché 5 bambini in prima elementare, che è una classe di avvio dell'istruzione di base, quindi parlare di merito è un po' prematuro, francamente. Infatti. Peraltro in 2 classi, no, credo. Perché noi siamo per il merito, come lei sa, io stesso intervengo, eccetera, eccetera, però poi se dobbiamo anticiparlo sempre di più è un po' un problema, anche perché noi siamo un sistema con una grande tradizione inclusiva e quindi abbiamo funzionato come tradizione inclusiva in cui mettere elementi di merito, però adesso mi sembra che non si debbano confondere i termini. Quindi una situazione, dicevo, strana, noi non è che facciamo un giudizio, favoriamo noi sistema, non noi io, favoriamo secondo delle procedure molto, molto seguite, abbastanza tranquille, che avvengono in decine e decine di casi in tutta Italia, disponiamo un accertamento della situazione, sì. Cioè non è un'ispezione punitiva. Qualcuno, diciamo, che ha competenza pedagogica, che risponde nella nostra organizzazione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, perché siamo anche qui organizzati, divisi per uffici scolastici regionali, si reca sul posto, sente tutte le posizioni, sì. Ascolta e cerca di capire quali siano le forme migliori dal punto di vista di tenuta pedagogica di quella scuola nell'interesse primario, lo dice la norma internazionale e nazionale, dei ragazzi e dell'apprendimento. Perché, sottosegretario, perché questo, lei dice però una situazione? Sì, sì, questo è l'accertamento. Avviene. Perché dice situazione strana? Sicuramente strana nei numeri, è anomala, infatti no, è finita sui giornali. Ai numeri, Io mi riferisco ai numeri. Dal punto di vista del diritto, lei l'ha detto benissimo in apertura di trasmissione, la bocciatura cosiddetta è possibile, ma 5, ecco, diciamo, richiede un approfondimento, anche perché, mi perdoni, ma io sono persona di scuola quando avevo 21 anni, appunto. Ma ci sono molti modi per cui un gruppo docenti, una scuola, si possa organizzare conforme anche appunto responsabile e libere all'interno dell'autonomia per fare degli accompagnamenti lì dove ci sono delle indubbie, probabilmente anche importanti difficoltà, fragilità dei singoli o del gruppo classe. Io prima di fare il sottosegretario ho fatto lungamente, diciamo, l'esperto che aiutava i gruppi docenti in azione a elaborare con fantasia ma anche con rigore le modalità per uscire da situazioni che effettivamente erano complesse, quindi tutto il rispetto al gruppo docente che nella sua autonomia ha preso la decisione, però di fronte alla difficoltà non è detto che ci sia una sola via d'uscita, ce ne possono essere tante. Questa è una... Questo è un primo aspetto, mi faccio dare le informazioni sul traffico e poi entriamo da qui, cioè è quello che è, e vorrei chiedere poi ad Arianna Toma, l'accusa da parte di alcuni giornali è di volere un po' strumentalizzare su un problema che ci può essere, quello del sovraffollamento delle classi, strumentalizzare questa vicenda, è un po' sottotraccia l'accusa che qualche giornale vi ha lanciato, tra poco. Strade in diretta. Ben trovati, 5 km di coda per un incidente in entrata a Milano sull'autostrada A4. Le code tra Trezzo ed Agrate provenendo da Brescia si sommano a quelle per il traffico intenso. Altre code dopo un tamponamento questo risolto sulla tangenziale ovest. Siamo tra l'Autosole e Rozzano in direzione Laghi. Passiamo ai lavori, code sulla 22 del Brennero di 2 km tra Bolzano Sud e Degnaora e tra Mantova Sud e Pegognaga in direzione Modena. Altri 3 km sulla A4 tra Palmanova e Monfalcone verso il confine di Stato. Sempre sull'autostrada A4 c'è un mezzo pesante in panne alle porte di Venezia, 1 km di coda tra la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave uscendo dalla città. In uscita da Napoli invece sull'autosole è chiuso al traffico il nodo Napoli centro direzionale. Ricordiamo che stamani la statale 162 diramazione del centro direzionale è stata chiusa tra Pomigliano d'Arco e l'innesto per le autostrade A1 e A3 nelle due direzioni dopo che una cisterna aveva preso fuoco per un incidente. Ed è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora. Allora, vorrei sentire Paolo da Palermo, ci ha chiamato all'800240024. Paolo, lei che ne pensa di questa vicenda? Buongiorno a tutti, intanto. Allora, io di questa vicenda penso, insomma, lo spunto è aperto a tantissime considerazioni. Il fatto che sono stati bocciati 5 non è un fatto discriminatorio. Sarebbe stato discriminatorio se fosse stato soltanto un ragazzino ad essere bocciato. A quel punto sarebbe meglio salvarlo per non discriminarlo. Ma detto questo, io voglio dire che finalmente che si comincia a bocciare sin dall'infanzia. Noi abbiamo almeno due generazioni, per essere sintetico, che arrivano in prima e seconda media, per non dire anche al liceo, senza conoscere le basi dell'aritmetica, della grammatica, della matematica. Cioè, voglio dire, chi è predisposto per lo studio va avanti, chi non è predisposto per lo studio è bene che sia via. Ma questo, Paolo, cioè a bambini di 6 anni, cioè io non sto dicendo, è questo il punto, cioè intervenire dalla prima elementare, in prima elementare, come ci dice il sottosegretario Rossidore, ci sono molti metodi, magari accompagnare, aiutare, ma fermare proprio così. Per carità, infatti ho detto proprio questo all'inizio del mio intervento. Fosse stato soltanto un bambino, allora a quel punto cerchiamo di salvarlo. Ma 5, si vede che c'è un problema della classe non idoneo. Poi si può anche andare a discutere sul fatto che abbiamo delle classi sovraffollate. Sì, ma infatti su questo, infatti, Arianna Toma, vorrei tornare. Grazie Paolo da Palermo. Arianna Toma, le chiedo questo. Non è che si è voluto e si vuole un po' strumentalizzare. Sarà anche un problema, è un problema quello delle cosiddette classi pollaio, con questo termine brutto, no? In cui ci sono 30-29 studenti. Esatto. Però subito, come dire, la colpa è quella, le maestre hanno fatto un lavoro eccellente e il problema di tutto è questo. Vi hanno accusato per questo di voler portare avanti, quasi utilizzando queste bocciature, una sorta di rivendicazione politica. Beh, allora, questa è come sempre la soluzione più semplice per... Pubblicamente, no? Non è proprio così, perché noi siamo un gruppo di genitori assolutamente eterogenei, di conseguenza non abbiamo nessuna appartenenza a qualche gruppo particolare. Tra l'altro vorrei dire anche, ma se la politica può servire in senso positivo, qual è il problema? Allora, noi è molto semplice, abbiamo fatto un ricorso al TAR proprio per il sovraffollamento delle classi, appunto. E il TAR ci ha dato ragione. È per questa la cosa, cioè che a monte c'è anche questo, che voi qualche mese fa avevate fatto un ricorso al TAR, quasi, il TAR vi ha dato ragione, quasi, io la dico in maniera brutale, mi perdoni, quasi a essere contenti che ci sia creato un caso con 5 bocciature per portare avanti questa rivendicazione. Assolutamente no, perché le 5 bocciature sono avvenute dopo la sentenza del TAR. Quindi la sentenza del TAR era in relazione a alcune norme che sono quelle della sicurezza dell'antincendio all'interno della scuola, che prevede 26 bambini massimo per classe e prevede uno spazio di 1,80 m per ogni bambino. Noi, oltre al problema del sovraffollamento, abbiamo anche il problema di classi molto piccole, che comunque non mantengono questa proporzione di misure. Quindi il TAR si è espresso prima dei 5 bambini della bocciatura, quindi non c'è nessun tipo di rivendicazione su questo. Sottosegretario Rossidore, il tema del sovraffollamento è un tema effettivamente centrale, secondo lei, in Italia in alcuni casi, come può essere in questo? Allora, non è centrale, in alcuni casi è un tema, perché noi abbiamo un territorio molto complesso, ci sono le isole, ci sono gli Appennini, ci sono zone spopolate, zone intensamente popolate, e c'è una media infatti che è molto bassa per classe, ma poi ci sono situazioni che effettivamente sono complicate perché sono sovraffollate, il mondo è complicato, e quindi appunto quando io dico che abbiamo un sistema che ha gli anticorpi perché ci sarà un accertamento, capiremo tutti gli aspetti. Le classi affollate poi, quando ci sono, possono essere gestite in un modo A, B, C, D, secondo un'organizzazione pedagogica e didattica. Quindi diciamo le cose si fanno ancora più complesse, quindi diciamo il sistema democratico prevede sicuramente il TAR e le sue sentenze, il sistema scuola deve continuare a funzionare. Io vorrei però rispondere anche al signore a Paolo, che Paolo da Palermo. Ci sono alcune questioni, no, semplicemente per correttezza verso la complessità sempre della situazione. La prima è che noi abbiamo una scuola dell'obbligo, cioè noi non è che possiamo mandare o non mandare i figli a scuola, li dobbiamo mandare a scuola, non è che poi c'è chi studia e chi non studia, perché fino a una certa età chiediamo a tutti i cittadini di studiare, questa è una prima questione. Dopo i 16 anni è vero quello che dice il signor Paolo, cioè si può studiare o non studiare o fare altre cose nella vita e poi riprendere magari gli studi da adulti come si vuole. In un sistema poi in cui noi stiamo facendo delle verifiche su quelli che sono i saperi e le competenze effettivamente acquisiti dai nostri ragazzi, quindi non è vero che bisogna stare attenti a dire tutti i nostri ragazzi non sanno leggere e scrivere. No, una parte non sanno leggere e scrivere, infatti parte, sì. Spendiamo molti soldi perché imparino a leggere e scrivere, magari partono, come diceva Don Milani, da situazioni un po' diverse da altri, perché c'è anche un altro tema importante, che è un tema su cui tutta peraltro la comunità nazionale riflette da tempo, cioè la scuola è un riequilibratore sociale, quindi diciamo il merito va considerato, ma non per destino, ma per acquisizione. Quindi quando siamo con un bambino di 6 anni, c'è stato il tempo dell'acquisizione, vediamocelo in maniera pacata tutti quanti. Su questo sì, io non so se me lo riesce a dire, però in flash in 10 secondi, intanto i genitori hanno promesso una class action, questo può, cioè sarebbe contro il ministero la class action tecnicamente, se volessero farla, sottosegretario. Stiamo valutando la cosa con il legale che ha seguito anche il ricorso al TAR. Ah, vabbè, sì, questo è delle istituzioni. Io quando vedo gli atti considero gli atti, adesso sulle ipotesi non. No, no, no, ma è chiaro, questo si leggeva sui giornali, l'ipotesi di class action. Intanto io vi ringrazio, che devo chiudere, sia il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria e Arianna Toma, che ripeto è presidente del comitato genitori dell'istituto comprensivo di Pontremoli, dove è avvenuta questo fatto di cronaca. Grazie a tutti, da Elisabetta Fusconi, in redazione con Alessandro Longoni, anche il nostro Diego Rovelli, Miriam Lucchetti, Peter Bescapè in regia. Seguiteci ovunque su 24 Mattino, su Facebook, eccoci lì, 24 Mattino, su Twitter, @24Mattino, ci sono anch'io, @AlinoMilan, e riascoltate tutto su radio24.it. A domani.